Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi guardo allo specchio. Ho gli occhi gonfi ma ancora perfettamente truccati. Indosso le mie scarpe coi tacchi, il cappotto, prendo la mia borsa ed esco di casa. Ho la bocca impastata, la nausea post-bornia e i pensieri annebbiati. Le strade della città sono deserte. Incontro solo due donne alla fermata dell'autobus. Sembrano straniere. Mi domando se alle 7:30 del 1° gennaio passano gli autobus. Io sono Sandra Granchelli, ho 44 anni, sono una maestra e vivo in provincia di Pescara. È il 2 di gennaio del 2012, lo dico una volta e poi vale per sempre. Buon anno nuovo e buon 2012, punto, l'ho fatto. E questa è la prima puntata dell'anno nuovo. È però la puntata del 2 di gennaio. Se però fate mente locale, riuscite a ricordarvi come stavate ieri mattina, giusto? Adesso è pomeriggio, è passata una giornata e mezzo. Però la mattina del 1 di gennaio è probabilmente la mattina più difficile dell'anno, per diversi motivi. C'è chi riesce a di solito sono quelli sportivi, quelli che vanno a sciare. Ah no, guarda, sciare il 1 di gennaio non ce n'è. Vanno a dormire tipo a mezzanotte e mezza e alle 7:15 sono già in piedi, alle 8 sono sulle piste. Ecco, di solito non si appartiene a quella categoria perché sono molto pochi, infatti sulle piste il 1° di gennaio c'è pochissima gente. Io però mi ricordo come stavo da bambino il giorno dopo la festa e stavo ma veramente male. Non che ieri sia andata in maniera diversa, poi vabbè, ieri ho fatto la solita roba di Capodanno leggera, quindi non è stato un granché riprendersi. Però mi ricordo che da bambino stavo male tanto quanto stavo male quando ritornavo dalle vacanze, perché era come se tutto si concentrasse intorno a quella notte lì o a quelle due settimane al mare, e quindi tutto girava a prepararsi per quella sera, immaginare cosa sarebbe successo, vestirsi per quella sera, e poi la mattina dopo arrivava il down. Continua ad arrivare, adesso è leggermente smorzato dal fatto che in un modo o nell'altro poi fortunatamente la vita riprende. E il racconto di oggi, il racconto di Sandra, parla di quella cosa lì, parla di come ti senti la mattina dopo il risveglio, che è un misto tra oddio cosa è successo ieri e chissà che cosa succederà oggi e in realtà in questo nuovo anno. Se avete voglia, se siete davanti a un computer in questo momento, è probabile, dai, il 2 di gennaio cosa vuoi, che mica starete a lavorare. Se siete a casa davanti a un computer ancora in pigiama, c'è sempre un profilo Facebook di questo programma che è Matteo Caccia, io sono qui. C'è anche una mail che è voi siete qui @radio24.it. Se avete voglia di raccontarmi com'è stato il risveglio di ieri, cosa avete provato e che cosa accadrà magari oggi e domani o in questo 2012. Vi prego, no progetti per il 2012, ok? No progetti per l'anno nuovo, non ce ne frega niente, in realtà non ve ne frega nemmeno a voi. 349-238-6666. La storia di Sandra è una storia, ripeto, è una storia molto semplice e ci è arrivata, peraltro, ci è arrivata, cos'era, ottobre, novembre, noi ce la siamo tenute lì belle da parte perché sapevamo che sarebbe arrivato un 1° di gennaio, che era domenica, e quindi è arrivato il 2 di gennaio. Però è una bella storia perché di fatto non ha degli episodi che accadono, e questo va contro in realtà la filosofia del programma, però aveva proprio quello che lasciava in bocca, era proprio un bel sapore, era il sapore del giorno dopo la festa. Mi sveglio sul divano di una casa che non è la mia e il primo pensiero che ho è che no, non sono innamorata. Sento il marito di mia cugina che russa nella stanza accanto. Controllo sul cellulare che ore sono. Ho dormito 2 ore. Prima di alzarmi cerco di elaborare un pensiero di auguri che suoni carino, magari originale. E poi penso che in 42 anni di vita ho esaurito da un pezzo le frasi originali. E sì, vi auguro un buonissimo anno, ma lo sappiamo tutti che è una baggianata. Che augurarcelo non serve a niente. Che la vita continuerà con alti e bassi, quelli di sempre. Ed è già una fortuna se quest'anno non sarà peggio dell'anno appena finito. Allora, era Capodanno del 2007... Avevamo festeggiato a casa di mia cugina a Pescara, sulle colline che sovrastano la città, e quella era la mattina alle 7, quindi io ero per strada, stavo tornando a casa. In bagno faccio una pipì molto alcolica, mentre guardo le mutandine rosse che mi ha regalato mia sorella, e le ho indossate perché si fa di tutto pur di avere l'illusione di poter controllare un minimo, anche un minimo, il proprio destino. Mi guardo allo specchio, ho gli occhi gonfi, ma ancora perfettamente truccati. Più o meno. Indosso le mie scarpe con i tacchi, il cappotto, prendo la mia borsa ed esco di casa. Una luce obliqua, dipinge di arancione il versante della città rivolto verso il mare. È una luce a tratti irreale che sta di fronte ad un cielo livido. Ho la bocca impastata, la nausea post-bornia, le dita dei piedi doloranti, i pensieri annebbiati. Le strade della città sono deserte. Incontro solo due donne alla fermata dell'autobus. Sembrano straniere e mi domando se alle 7:30 del 1° di gennaio passano gli autobus. Incrocio anche un camion della spazzatura e una pattuglia dei carabinieri. C'è ancora vento e la temperatura è decisamente più invernale rispetto a ieri. Ieri sono uscita di casa senza giacca e nella rotonda dell'Ipercop erano sbocciate centinaia di margherite. A Santa Teresa i rivelatori della velocità mi invitano a rallentare, ma è possibile che i rilevatori di velocità debbano romperti le palle anche la mattina di Capodanno? E poi dico, vado a 54 km all'ora, cosa volete che rallenti? Per trovare un bar aperto devo arrivare a Pianella. Dentro al bar solo vecchi. Mi intravedo nello specchio, di fondo, mentre bevo un caffè disgustoso. Ho l'aspetto di una donna elegante, appena un po' stanca, che ha passato la notte a folleggiare. E sto decisamente bene con i tacchi. Anche se tutte stiamo bene con i tacchi, lo so. Mi rimetto in macchina e guido sotto la pioggia. Mi sento felice. Sono felice a tratti. E che cos'è la felicità? Boh, è che stai bene, ti senti bene, ti sembra che tutto vada come deve andare e che è la tua vita, che stai vivendo la tua vita, non la vita di un altro, la vita che gli altri ti impongono. Guarda, me ne ricordo uno di quando avevo 12 anni ed era primavera e correvo in discesa sulla collina, tipo Casa della Prateria, Laura Ingalls, non so chi se lo ricorda, insieme al mio cane. Stavo andando nel bosco a raccogliere le primule. E intanto penso che si può vivere bene anche senza un marito, senza dei figli, anche senza un fidanzato. Occorrono degli amici, buoni però. Guardo la strada che scorre davanti e sotto di me. È dritta, senza curve. Ogni tanto qualche stradina di campagna la incrocia, allora io butto un occhio per vedere da dove arrivano e poi tiro dritto, anche io. Continua a piovere e tira vento. Sulla Maiella sta nevicando. La mattina dopo la festa non è mai una mattina facile. Non lo so, sarà per questo che non mi piacciono particolarmente le feste. Un po' perché non ho ancora trovato il modo per divertirmi alle feste. E un po' perché il mattino dopo è sempre complicato. E poi, non è che non mi ci sia mai divertito a una festa, eh. No, quello che voglio dire è che non ho ancora scoperto un modo unico e facile per divertirmi sempre ad una festa. Voglio dire, se vado al ristorante ci vado per sfamarmi e mangio, no? Se vado allo stadio voglio vincere e se perdo ci rimango male. Ma se vado a una festa, cosa devo fare esattamente per divertirmi? Visto che non bevo alcolici e non uso droghe, ho sempre pensato che l'unica soluzione fosse tacchinare qualche ragazza. Però, ballando poco e male, non posso giocarmi quella carta lì. E mi tocca sempre fare delle battute che se c'è la musica alta non funzionano, perché le devi urlare. Oppure devi fare quello ombroso, no? Al contrario, quello che chissà perché non parla. E poi soprattutto, diciamolo, ormai c'ho 36 anni e quella cosa del tacchinare è diventata patetica. Quest'ultimo dell'anno l'ho trascorso come lo trascorro più o meno da 10 anni a questa parte, salvo qualche rara eccezione. Sono stato a cena a casa di amici fidati, di quelle cene che fai finta che non succeda niente fino a mezzanotte, ti strafoghi di cibo, brindi, fai esplodere qualche raudo e verso le 2 tutti a dormire. Il risveglio più difficile però, intendo il risveglio dopo una festa più difficile, me lo ricordo bene, era Capodanno. È stato un po' di anni fa, ero a New York ed ero innamorato. Io. Lei no. E l'ho capito proprio dal risveglio. C'è odore di caffè. Mi giro nel letto per annusarlo meglio. Lei è di spalle al tavolo della cucina. Mi sollevo puntellandomi appena coi gomiti sul materasso e la osservo. Ha addosso una canottiera grigia e un paio di slip di cotone. Sta girando lentamente un cucchiaino in una tazza fumante. Ecco, l'odore arriva da lì. La testa è chinata a guardare la tazza. Le vedo solo la nuca, ma sembra ipnotizzata dal vortice che il caffè crea intorno al cucchiaino. I capelli le scendono sulla spalla destra e riesco a vedere il collo, scoperto, bianco. Il collo è la parte più vulnerabile del corpo. E guardandolo dalle spalle, mentre lei è assorta a fare altro, sembra impossibile che una persona che mostra il collo in quel modo e lo fa mentre gira lo zucchero possa fare del male a qualcuno. Vorrei che non si voltasse mai. Vorrei che lei girasse il caffè sempre in quel modo. Tutta la casa, tutta la giornata, tutto il mondo sembra guardarla di spalle insieme a me in attesa che lei faccia qualcosa, però allo stesso tempo nella speranza che continui a girare il cucchiaino per sempre, senza mai fermarsi. Che è un'azione che è un passaggio tra il preparare il caffè e berlo. Un'azione che, proprio perché non è né l'inizio né la fine, è sospesa e come in attesa. Buongiorno. Me lo dice senza girarsi. Merda, lo sapevo. Mi sono mosso, ho letto cigolato e ha capito che ero sveglio. Hai visto come nevica ancora? Guardo fuori dalla finestra e vedo solo bianco. Poi le pupille si chiudono e distingo fiocchi di neve grandi come una foglia che cadono lentamente. Lei mi viene incontro, bacia la mia bocca con la sua bocca che sa di caffè e mi porge la tazza in cui il liquido scuro ancora gira per via del cucchiaino. Senti, io devo uscire, tu cosa fai? Le chiedo che giorno è e lei mi risponde: è il 2 di gennaio. Poi si gira e sparisce dietro una porta. Io capisco che non so come abbiamo trascorso un giorno e due notti in questa casa. O meglio, forse lo so, ma ho paura. Ho paura perché sento che è già finita. E lo sento dal sapore del caffè che mi ha lasciato sulle labbra. Lo sento per il fatto che lei ora si sta facendo una doccia e al ritorno mi dirà che deve andare dai suoi, o dai suoi amici, o dal suo ragazzo, perché in fondo cosa so di lei? L'ho conosciuto la sera del 31 di dicembre e non so perché ho pensato che lei potesse diventare la mia donna. Non lo so, ma l'ho pensato. Mi sembrava addirittura che la festa avesse senso, grazie a lei. Che perfino l'ultimo dell'anno potesse per una volta essere sensato. Poi lei è tornata avvolta da un asciugamano, con i capelli asciutti e raccolti. Mi sembrava così bella che non capivo quanto fosse la mia mente ad immaginarla o io a vederla davvero. Penso che nel giorno in cui si fanno progetti per l'anno nuovo, per il futuro prossimo, ecco, il mio progetto ce l'ho. Io vorrei stare con lei tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno, eppure so già che è finita. Lo vedo dal suo modo di muoversi per casa, dalle cose che dice e da quelle che non dice, e realizzo che allora è vero che si capisce subito, che non servono ragionamenti, prove, riflessioni. Se una cosa funzionerà, lo capisci dal principio. Basta saper leggere i segni, ma le informazioni per capire come andrà una cosa ci sono sempre, subito disponibili, sin dal principio. Il resto è illusione o rappresentazione. E se questo è il mio inizio dell'anno, beh, in bocca al lupo, Matteo. I want you to stay far. Il 2 di gennaio non è mai una giornata facile, non lo è, primo perché arriva dal primo di gennaio, intendo, da Capodanno, che di solito è una giornata complicata, e secondo perché è proprio di quelle giornate che stanno lì in mezzo, no? Che la festa è appena passata, c'è l'Epifania che sta per arrivare, però non sai mai cosa fare, e le 4 del pomeriggio, le 4 e quasi e mezza del pomeriggio del 2 di gennaio, secondo me non è un momento particolarmente facile. Non so però se è così anche per Sandra. Pronto, Sandra? Sì, eccomi. Ciao, come stai? Bene. Grazie per essere qui, ovviamente, per aver scritto il racconto e per avermelo mandato. Senti, dove ti trovi in questo momento? Sono a casa. Gennaio sei a casa, quasi per forza. Senti, tu sei maestra elementare, dicevi? Sì. Che da quanto lo fai? Che tipo di bambini? Cioè, che tipo di bambini hai? Credo che non valga, nel senso che come funziona? Che si prendono i bambini dalla prima e si portano fino in quinta? Sì, io lavoro nella mia scuola da tanti anni, per cui sì, li tengo dalla prima alla quinta. Parliamo di una scuola in provincia di Pescara, giusto? Sì, una scuola piccola con dei bimbi magnifici. E quanti bambini segui? 10 bambini in una classe e 15 in un'altra, è una scuola piccola. Ma scusami, perdonami, è veramente passato tanto tempo da quando io non ho una maestra. Tu gli fai tutte le materie? Gli fai? No, noi non abbiamo il maestro unico, abbiamo mantenuto una specie di modulo per cui io faccio italiano in una classe, più arte immagine, altre cose così, e matematica in un'altra classe. Senti, ma è tipo adesso che sono le vacanze di Natale, gli dai compiti per le vacanze di solito ai bambini? Sì. Sì? Gli do i compiti. Ma scusa, quanti anni hanno? La seconda e la quarta elementare, quindi 7 anni e 9 anni. E che tipo di compiti gli dai? Beh, addizioni, problemi, sottrazioni, ripasso le tabelline, roba con le letture, cose così. Senti, ma no, che mi incuriosisce da morire sta roba. Ma cosa fai? Gliele scrivi sul diario, distribuisci dei fogli? Distribuisco dei fogli con i compiti scritti perché faccio prima. Ok, senti, veniamo invece al Capodanno. Faccio le fotocopie. Ok, senti, invece Sandra, veniamo al Capodanno, perché il tuo racconto era perfetto per oggi, cioè sarebbe stato perfetto per ieri, che era il 1° di gennaio, però era domenica e non eravamo in onda, quindi l'abbiamo fatto andare bene per oggi, che è il 2. Qui parliamo del Capodanno, mi dicevi prima, durante il racconto del 2007, quindi si parla di, siamo nel 2012, 5 anni fa praticamente. Anzi no, scusa, ho sbagliato, era il 2008. Era il 2008, perfetto, quindi 4 anni fa in realtà. Sì, 4 anni fa. Cosa è cambiato in questi 4 anni nella tua vita? Che ho un legame più stabile. Un legame inteso una storia, che hai un Abbiamo paura di dirlo, Sandra. Sì, abbiamo paura. Abbiamo paura di dire la parola fidanzato? No, non la voglio dire. Non la vuoi dire? Vabbè, diciamo, questo legame più stabile da quanto c'è? Da allora. Da poco dopo quel Capodanno. Ah, ma quindi, scusami, è stata veramente una svolta, perché adesso non vorrei riprendere in mano proprio quello che dici tu, ma tu chiudevi dicendo si può essere felici anche senza un compagno, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dopo 2 secondi ti contraddici. Dopo qualche mese, ecco. Ok, guarda, come direbbe mia nonna, è meglio così, perché avere un affetto è sempre meglio. Lei usa proprio la parola affetto. Che bello. Anzi, se vuoi utilizzarla, invece che legame stabile, che fa veramente schifo, obiettivamente. Sì, sì, è vero. Senti, invece, dimmi cosa hai fatto questo Capodanno qua, cioè 2 giorni fa. Questo Capodanno sono andata a Pacentro, che è un paese dell'Abruzzo molto bello, vi consiglio di andarci tutti, a casa di una coppia di miei amici, e abbiamo cenato lì. Quindi eri tu, il tuo legame stabile, perdonami, tu, il tuo affetto e la coppia di amici. No, anche altre. Ah, okay. Eravamo 12 persone. Ok. Senti, progetti particolari? No, non te la chiedo sta roba, dai, che palle. La chiedono tutti i progetti per l'anno nuovo, chi se ne frega. Senti, Sandra, io però ti ringrazio molto. Io odio i progetti per l'anno. Figurati, a chi lo dici. Senti, ti ringrazio però moltissimo e ti faccio quantomeno gli auguri per un buon 2012. Anche a voi, buon anno a tutti. Ciao, Sandra, grazie ancora. Voglio fare gli auguri di buon anno. Figurati, siamo in 2, per cui. Ma abbiamo fatto tutto in questa telefonata. Sì. Ciao, Sandra, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Sandra ha confessato di averci mandato una foto insieme al racconto, che è di qualche anno fa. Lo ha detto ufficialmente fuori onda. Però porta decisamente bene i suoi 44 o 40 e qualcosa anni. Nella foto è appoggiata una di quelle poltrone di pelle bucherellate. Non bucherellate, come si dice? Vabbè, insomma, sembra un po' da avvocato, Paolino, hai ragione. Sembra una poltrona frau, anche perché da quelle parti, Pescara, credo, Macerata. Vabbè, chi se ne frega. Ha i capelli rossi, ha un bel maglione nero, un giro di perle, degli occhiali e ha la testa appoggiata su una mano. Avete presente come quando si cerca di ascoltare qualcosa o si pone attenzione a qualcosa? Ma dallo sguardo innamorato sta sicuramente guardando il suo affetto. 349-238-6666. È il 2 di gennaio, è stato un risveglio difficile. Lo è stato per Chiara anche, che scrive: ho 12 anni, a me quelli che scrivono 12 anni non ho capito se siete dei cinquantenni e avete capito che mi divertono quando mi scrivono i bambini oppure siete veramente dei bambini. Chiara, ho 12 anni e ho fatto brillare le fontane sul terrazzo di casa, ma la mattina dopo, o non ho capito se l'hai fatta la mattina dopo o la notte di Capodanno, perché la notte di Capodanno tant'è, ma anche se ha 12 anni a parte il termine brillare, anche sembra che hai fatto esplodere una bomba. E poi in teoria dovrei dire che non si fa, vero? Che non si fanno. Ma chi lo fa? L'ho fatto pure io. Faccio sempre esplodere dei raudi la notte di Capodanno. Non i raudi, i magnum. No, hanno un altro nome. Ah, è vero. Mi ricordo che una volta volevo far esplodere anche in radio, non qui, in un'altra radio per la notte di Capodanno e me l'hanno impedito. Erano solo dei mini ciccioli, dei mini ciccioli si chiamano, delle micette, mi hanno impedito di farlo, però ero all'interno di uno studio e forse non avevano proprio tutti i torti. Claudio mi risponde a proposito del risveglio: io mi sono addormentato alle 10 del mattino del primo di gennaio, ostia, e quindi per me il giorno dopo la festa è questo qua. Beh, in bocca al lupo. E poi invece Petra mi scrive semplicemente un messaggio: 349-238-6666. Hangover totale. Hangover, per chi magari non sapesse esattamente alcuni termini inglesi, un po' di slang, non so se quanto sia slang, però hangover è in realtà intraducibile, perché che già dicendo che una roba intraducibile è veramente spocchioso e orribile, perdonatemi, lo rifaccio: è difficile tradurlo hangover, perché è quella sensazione che hai di mal di testa, è proprio tutto insieme, il mal di testa, la nausea che hai il giorno dopo una sbornia, da cui è stato tratto quel film che era un film delirante ma divertentissimo, che in americano era Hangover, in italiano era invece adesso ci arrivo, Una notte da leoni. Una notte da leoni, che è quel film ambientato a Las Vegas, in cui ci sono questi quattro pazzi che vanno a festeggiare l'addio al celibato, vanno a Las Vegas, e tra loro c'è Kalifianakis, che è questo attore. Se non sapete chi è Kalifianakis, andate a cercarlo subito, immediatamente, e soprattutto guardatevi quel film, perché è proprio il tipico film stupido che è molto divertente, che si chiama, e grazie Petra per esserci arrivato in qualche modo, Hangover in inglese, in italiano è Una notte da leoni. 349-238-6666. Sì, Kalifianakis è l'attore che, peraltro, oltre alle varie cose che fa, ha fatto una serie che si chiama Bored to Death, Annoiato a morte, in cui lui è il coprotagonista insieme a un altro, che è quello che invece faceva, credo, Il treno per il Darjeeling. Vabbè, ma sto dicendo robe a cavolo, è il 2 di gennaio un po' per tutti. Quando ho pensato al Capodanno, mi è venuto in mente, perché chiaramente nella mia ristretta fantasia e ai festeggiamenti di Capodanno, mi è venuto in mente un racconto di Nicolò Ammaniti, che in realtà è un racconto lungo, forse è più un romanzo breve, però si trova in una raccolta di racconti che si chiama Fango, e il racconto invece si chiama L'ultimo Capodanno dell'umanità. Non L'ultimo Capodanno, L'ultimo Capodanno è solo il titolo del film che è stato tratto da questo racconto lungo. Questo racconto lungo in realtà si chiama L'ultimo Capodanno dell'umanità, che è molto più bello come titolo dell'ultimo Capodanno. Voglio leggervi un pezzettino che riguarda proprio la mattina dopo il risveglio. Non voglio dirvi di più, semplicemente qualcuno ha festeggiato con dei botti un po' eccessivi e sono esplosi due palazzi. Il film, non mi ricordo nemmeno se è consigliabile, però il racconto, secondo me, come gran parte dei libri di Ammaniti, invece lo è. Comunque, il racconto è abbastanza lungo, sono un centinaio di pagine. L'apertura, però, sapete quando ci sono le dediche, le citazioni? L'apertura del racconto comincia con un pezzo preso da un dépliant pubblicitario che raccontava come era stato costruito il comprensorio, che evidentemente esiste veramente, che si chiama Comprensorio delle Isole, che si trova sulla Cassia a Roma, che sono quelli che esplodono, che saltano in aria in questo racconto. E vi leggo giusto due righe, perché immaginare che nel 1972 qualcuno avesse compilato questo dépliant pubblicitario è un po' delirante, e ve lo leggo velocemente. Al 12° chilometro della Cassia, al numero 1043, sorge il comprensorio residenziale delle isole. È un complesso architettonico formato da due moderni stabili, la Palazzina Capri e la Palazzina Ponza, esempio di un'architettura pensata e costruita a misura d'uomo, con ampi spazi verdi e una panoramica sulla lussureggiante campagna romana. Poco distante dal centro di Roma, solo un quarto d'ora di macchina, è ideale per tutti quei professionisti che lavorano in città e chiunque desideri vivere in un'oasi di esclusiva calma e serenità. Questo era il dépliant pubblicitario del comprensorio delle isole, quelle che in questo racconto vengono fatte saltare in aria. primo gennaio, ore 00:00. A mezzanotte e 58 secondi anche la palazzina Ponza esplose. La deflagrazione fu molto più forte perché nel seminterrato c'erano i serbatoi del gas. Il tetto saltò come un tappo di champagne, sommergendo il parcheggio e la cassia e la zona circostante di tegole marroni e mattoni. Primo di gennaio, ore 6:52 della mattina. Alle 6:52 cadeva sulle macerie una pioggia continua, sottile e impalpabile. Faceva freddo e non c'era vento. Il cielo coperto da una coltre continua di nuvole, la valle vicina nascosta dalla nebbia. I palazzi stessi e il fumo formavano una sola cosa grigia. L'odore di bruciato, un misto di plastica, benzina e legno dei pini unito a quello della pioggia, prendeva la gola. Alcuni sparuti focolai continuavano a bruciare tra le macerie e spire di fumo basse avvolgevano quello che restava delle palazzine. La cassia era stata chiusa. Davanti al comprensorio mancava l'asfalto per 200 metri, se l'era portato via l'esplosione. Carcasse fumanti e contorte di automobili giacevano sparse in mezzo alla strada. Gli scheletri abbrustoliti dei pini cingevano quello che restava dei muri di recinzione. Ambulanze, camion dei vigili del fuoco, macchine della polizia. Erano tutte parcheggiate in disordine davanti all'ingresso del comprensorio. Squadre di pompieri nei loro impermeabili arancioni lavoravano in silenzio, tra le colline di macerie, alla ricerca dei sopravvissuti. Fatica sprecata. Finora li avevano trovati tutti morti. E le speranze di trovarne vivi erano poche. L'esplosione era stata troppo violenta. Il pompiere, aiutato da altri due, afferrò il corpo per le braccia e lo tirò fuori. Una donna. Indossava un lungo abito da sera, rosso, bruciato in più punti. Era anziana. Aveva le mani magre e grinzose dei vecchi, ora annerite dal fuoco. Anelli grossi alle dita e intorno ai polsi bracciali d'oro, pesante. E l'orologio funzionava ancora. Erano le 6:53 del primo di gennaio. Visto che prima, parlando della foto di Sandra, ho detto che era seduta su una poltrona Frau e ho parlato di Macerata, qualcuno giustamente, probabilmente da Macerata o da Tolentino, mi scrive: la Frau si trova a Tolentino e non a Macerata. Sapere dov'è Tolentino non sarebbe male, però mi ricordo che il teatro di Macerata è praticamente sponsorizzato solo da quell'azienda lì che fa poltrone. E poi Giorgio mi scrive a proposito del racconto di Nicola Ammaniti, che dice di aver letto: io però non ho fatto esplodere tutto il palazzo, ho fatto esplodere solo il mio bagno avendo versato dell'alcol nel water. Grande Giorgio. Giorgio, ringrazio te per questo piccolo dettaglio. Ringrazio soprattutto Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Aina e Stefano D'Andrea per aver cominciato insieme a me questo anno nuovo. La storia di oggi era la storia di Sandra e parlava del giorno dopo la festa. Quella di domani è la storia di Eliano e parla della perdita della verginità. Ho 16 anni e finalmente parto per la Svezia. Sono almeno 4 anni che voglio andare a fare il mio sospirato ritiro. Gioco ad hockey su ghiaccio, in una squadretta di Torino. E la Svezia, per i giocatori di hockey, è come l'America per il baseball o l'Olanda per il pattinaggio. Sono così felice che mi sembra di non avere più niente da fare qui. Devo solo partire.